mezzo. E loro ce l'hanno in alto a sinistra, premono il microfono e parlano da lì. Vicino alla spalla lo tengo, il mic. Sì, sì. È comodo anche in macchina, capito? Te lo appoggi l'apparecchio e parli col microfonino. Appa. Sensitivo, bello sensibile. Aspetta, voglio vedere la posa. Ma ci metti molto, tra un passo di lato c'è un buco enorme. Più che altro il delay, il ritardo, cioè è molto seccante questa posa, da quanto sarà? Un secondo sarà? Sì, è lunga, Marco. Io pensavo che lo stessi facendo apposta per vedere se c'era gente che doveva entrare. Sinceramente. Vediamo un po' adesso, prova. Le regolazioni ci sono già. Sensibilità, vox, il ritardo, cioè lo stacco della portante più quello antidisturbo per rumore di fondo, che qua non ce n'è, qua c'è un silenzio di tomba. Prova a fare lo stacco adesso. Prova. È un bel lungo, cavolo, e troppo devi aspettare. Immaginati che è più lungo di un passaggio che faresti facendo, lasciando lo spazio per entrare qualcuno, va. Yeah. No, così è ancora più lungo, aspetta. Prova. No, devo metterlo verso l'1, 9 è durata lunga, 1 durata breve. Adesso lo modifico. Ecco, adesso il minimo, guarda quanto stacca. Sempre un bel lungo. No, aspetta, prova, guarda come stacca subito. Ma parla quando stacchi, se no me ne accorgo. Ho capito, come non te ne accorgi? Guarda, se devo parlare di filato, perché se stacco, stacca subito, 1, 2, 3, prova. Non ti lascia il tempo di finire. Sì, sì, già, perciò bisogna dare un minimo di eccolo lì. Però caspita, non posso fare pause perché altrimenti mi mangia la. Guarda, 5, a 5 va messo, dai, più o meno. Capito. E vabbè, cavallino, dai, che fosse il minimo. Vabbè, con quello non c'è bisogno di lasciare spazio per far entrare la gente, se uno ha solo lo spazio. Hanno lo spazio per entrare. Ma è tutto a livello così, tanto per prova, poi non è che sia a mani libere sempre, grazie a Dio, finché c'ho l'uso delle braccia, ecco, così dovrebbe essere ottimale. Smetto di parlare. Sì, a metà, 5 non è eccessivo, dai. Già, va bene, dai, cavallino. Prova, ecco sì, sono tornato al mic normale. Ok. Sì, questo l'ha isolato, questo l'ha isolato. Quindi togliendo il vox esclude il microfonino piccolino da bavero. Va bene. E quindi già non si è uscito, non si è andato in girella, no? Platamona, Polo Torres, fare un giretto così. No, esco stanotte. Esco stanotte. Adesso mi riposo un po' perché mi sono pulito tutta la casa oggi e sono molto stanco. Pulita la lana a zeta, bagni, polverato, lavato in terra, la polvere, insomma, di tutto e di più. Bravo, bravo, così si fa. Se vuoi vieni anche qua, mi ti pago. È importante che non faccia fatica io. Se mi buscherà la Madonna per farmelo, guarda. Non mi pari bene. Oia, oia. Ovviamente Bona, la collaboratrice familiare vuole Bona, certo non prendi una racchia, no? E di quella che puliscono il minigonna, ehi, che come si piega così a pulire per terra, eh? Si vede tutto. E beh, anche lui che vuole la sua parte, no? Beh, ce l'ha fatto. Maniaci. Buonasera. Siete due maniaci. Ah, ciao a te. E pensavo non c'era nessuno, allora va. Buonasera, buonasera. La voce era solo, grumelli. No, non sto entrando al lavoro. Si è stanca allora, è lavorata anche oggi. Qualche extra si fa qualche extra per arrotondare. Ormai se mi aiuto non bastano più, quindi. Più un anno e più rivoli, dici. Voi pezzottino, più ne ha più ne vuole, bobo. Ancora. Tino, ti avevo preso per franco di sorso, per via del segnale, ma sei al minimo sindacale, sì? Sì, ho appena acceso, proprio leggero, leggero, calmo, calmo. Appena acceso, quindi credo che sia circa 20 watt neanche. Eppure no, che c'è il basso, mi stai sbattendo la lancetta dello smitter. Sì, vabbè, già appena acceso, ho appena acceso, quindi non so. Scusate, che a dei casi mi faccio tutto. Mi sfasci la lancetta quando scaldo. Oi, oi, oi. E allora, Tito, se stacco morto. Non c'è bisogno di scaldare, ti accontento, tieni. Esso Maria, ecco il Tino che conosco. No, sai perché te l'ho chiesto, Tino? Ho detto, ma o è secco questo smitter, arrivi 9 da pulito pulito, con 20 hai detto, io con 10 com'è, guarda un po', quello smitter sarà anche più professionale, vedi un po', 1, 2, 3. No, aspetta Marco, questa è l'altra, questa è 5005, poi se la radio è differente non lo so, ti attacco altro, Ehi, se arrivo a 9 è grasso che cola, dai, se arrivo a 9. Sì, no, 5005, con che microfono stai usando? 5005 doppio 5. Marco, ti devo contentare, fai quasi 9,15 tu, con questo smitter qua. Sì, allora è secco, questo smitter qua è secco. Vabbè che ha LED, però ho visto che ne so, chi arriva a 9 più 10 me lo segna a 9, per esempio. Dovesse arrivare un segnale simile a quello che mi hai dato tu. 9,10, no, anche 9 più 15 con 20 watt, capito? Ok, smitter secco, me lo segno. Perché uno è troppo generoso, uno è secco, l'altro è LED, anzi più di uno a LED. Vabbè, accontentiamoci di quello che passa al governo, dai, vai Gianni. Tutti i vostri mani, Josh Smitter. No, io già sono con le superstar che è secco, che dà due segnali in meno, ma ormai lo so e dico segnale normale, dai. No, non dico quello che mi sceglia, ma dico con due segnali in più. Così almeno non sbaglio. Guarda, allora Marco, tu fai 9,15 con picchi a 9,17, mentre invece Gianni fa 9,20 con picchi a 9,22. Picchi ce li ha, io credo che fosse così limitata la modulazione da non dare picchi, guarda se fischio. Non riesco a farlo fisso il fischio però. 9,18. Ragazzi, vi devo mollare, devo accompagnare mio figlio, magari se coincide tanto il tempo di salire la croce e scendere e poi riprendo, vai, così almeno scalda, poi mi dà un altro segnale, Marco. Comunque modulati sono 9,20, io sto andando, ma 9,20, 20 watt modulati, è portante fissa 8 watt. Cosa ti scivate da lì, Sciampani? Ah, questo è il 45, il 450. Ah, ecco perché. L'altro ha più watt, l'altro fa da mezzo watt a 18 mi sembra. E giova anche lui. Cappagatto. Allora, Tino, ma tu ce l'hai ancora l'apparato in macchina? No, devo dire la verità, ho staccato tutto perché non c'era più attività e girare con l'unica macchina con l'antennone dietro non è andato, quindi ho tolto. Vabbè ragazzi, dai, scusatemi ma dopo fare un tocco e fuggi. KK, ciao T, che antenna c'ha qui? Fratelli C, 2002. KK, no io ce l'ho anche con 2001, quando l'avete di voi tutti a Riviga, dove viene la macchina? Scusate, tommi la macchina all'autoscontro. Vabbè, ciao, sto andando, non lo prendo, ciao. Ciao, sì. Ma io per fortuna la posso togliere perché non ce l'ho con la base magnetica, la poco se lo cado mi piace. Ehi, ciao Tino, ciao, buona serata, buon tutto. Pensa Marco che prima non me ne fregava nulla, se ridevano, se non me ne fregava tutto nulla, adesso però mi stavano un po' di fastidio. Infatti, vi ho detto, se l'avessi avuta dietro non l'avresti vista questo tipo. Pace e bene. a tutti. Buonasera padre, ma non mi viene il tuo nome, padre Gianfranco. E allora figlioli, come va? Bene, bene, anche dalle cavate che siamo così che. Ah, non la conosci? Sì. Non ci sono più, ci vedo una volta. Tu Marco, la conosci, eh? Beh sì, direi proprio di sì. Ma oddio, mi sembrava una cosa chiesastica all'inizio, una cosa soft, che roba è? Era l'inno della Radio Vaticana, alla fine della quale c'era l'Aiutor Gesù Cristo, qui Radio Vaticana, stazione di Monte non so che cosa, radiogiornale delle ore oppure discorso del Santo Padre. Per quello che io non voglio avere a che fare con la Chiesa e tutti quelli che gravitano attorno, no. Quella è la storia della radio, però. Gianni, non l'ha mai ascoltata sul ricevitore? No, è l'archivo. Il meteo marino, tutte queste cose qui, sì, ma quali non l'ho mai sentita, la verità. A pensare che adesso hanno battuto tutto, le hanno fatte crollare, attaccate a un gancio a antenne anche di qualche centinaio di metri che sono scese a terra perché davano fastidio. Adesso c'è solo online, in FM, in DMR da qualche parte. E vabbè, tutto. Chi è che mi dice com'è questa radio? Perché non mi ero accorto che l'apparecchio c'aveva la regolazione dei toni. E quindi adesso è tonalizzata verso l'alto in modo da guadagnare qualche picco in più, anche se sono a bassa potenza comunque. Ottima. Né troppo forte e né troppo debole. Sì, sì, buona come toni. Come hai detto tu, dai, anzi certe volte sei anche troppo basso in radio, cioè va bene un minimo, ma almeno essere ascoltato, questa è buona, è ottima. Gianni, Marco, guarda che Marco ti cazzicheggia di brutto, quindi è inutile la sovramoduli, passa sempre lui. E com'è possibile che passi io, che sono dall'altra parte di Sassari? Perché la dimostrazione pratica che c'è un ottimo rendimento di antenna, nonostante senza bisogno di avere una radio forte, tutto lì. Non è la radio che fa la sovrapposizione, è il segnale, non c'è nulla da fare. Fare il più forte, tutto lì. L'ho già detto anche a Porto Torres, se è una cosa micidiale, che non si crede. Poi la zona è eccezionalmente buona. Figurati se ti metti un'antenna di quelle 5 ottavi, di quelle alte. Allora sì, ti prendi i gianni. Beh, a Porto Torres arrivo forte anche io. Quello non lo vuoi dire, perché arrivo 9.5 a Porto Torres, 9.95 sempre. Ti posso assicurare che Marco arriva benissimo, molto molto bene, perché io ero lì con quello piccolino sempre, quello piccolino, purtroppo non ho voglia di metterci mano su quello, Marco, troppo piccolo è dentro, troppo piccolo, per togliere quell'effetto di tonalità, perché anche cambiando microfono, più o meno la stessa cosa. C'è il modulatore che esce così, bisogna cambiare qualcosa lì a livello, qualche resistenza, non lo so, condensatori, non so nemmeno come è fatto il modulatore, io niente saccio. È semplice, però magari sai c'è quel condensatore di troppo poco che fa l'effetto, tutto lì, è così. Vabbè, oggi è una giornata così, non è né brutta né bella, stamattina ha piovuto, però c'è un freddo ragazzi, dai pantaloncini corti alla felpa pesante. Basta coprirsi, è più brutto il caldo del freddo. Quello sì. Il caldo, anche se ti metti a petto nudo, invece con il freddo dici, se ti dappi, c'è il caldo, sei tranquillo. K. Io non sopporto il caldo, perlomeno. Nemmeno io. Io neppure. Quando è troppo, la verità si dica. Nonostante sia allenato, a sopportarlo, però ti bagni tutto. Spazzo quando fai allenamento. Oi, da quando sono senza fare allenamento non ci posso pensare, guarda, non ci posso pensare. Fallo subito, se lo devi fare, perché poi col Covid che chiudono tutto adesso di nuovo, ne se ne parlerà dopo Natale. Sì, mi sa anche oltre, purtroppo. Adesso non dico che sono fermo come movimenti, anzi posso uscire eccetera, però sono limitato perché posso andare solo a piedi perché la bici non c'entra nella macchina che ho, porca la miseria, tutti a me capitano che è un anno proprio del mare. Andiamo, canta. Signora, sì, andiamo male. Mi raccomando, non esca fuori, mi, che è pericoloso. Andiamo male, andiamo, cazzo, bobo. Marco, su. Aspetta Gianfra, che ho seminato la bottiglia e l'acqua da qualche parte, a casa non la trovo, l'avevo appena aperta, ciao a chi è entrato, Luca, tu sei? Buonasera signorina, buonasera. Signorina, tu mi turbi, te lo ricordi con lo sketch di Benigni? Bello! Signorina, tu mi turbi. Ui, che film era? Ma non me lo ricordo. Dai, aspetta, devo trovare l'acqua comunque, riprendete. Ciao Cucca. Ciao Luca. Già ci sei venuto stamattina? Sì, sì. Già, purtroppo non l'ho fatto in tempo, è che stavo preparando un televisore, c'è tutta la mattina mi è volata. Già mi farò un salto, dai, tranquillo. Vabbè, io ce l'ho, quando vuoi, non c'è problema. Se mi capita a me di passare con le patte te lo passo, però stasera devo fare cose. No, guardate, sono qua, io sono a 25, capito, non fa. Luca, Gargamella! Marco, siamo bravi, prima. Marco sta cercando la bottiglia, ma perché non se la compra una borraccia? Che così non inquina nemmeno. Il camel bag. Ciao, chi è entrato? Ma è entrato qualcuno o le travego io? Parlate sempre in due. Cavolo. Allora, in ordine. Ripeti Marco e poi Gianni e poi Luca. Vediamo se ci riusciamo. Ehi, ho detto ciao a chi è entrato, se è entrato qualcuno. E io ti ho chiesto quanto ti arrivo di segnale. Hai chiesto a me? A chi devo chiedere? A te ti ho chiesto, signore. Allora, dovrebbe essere intorno ai 9. 9. Te lo do anch'io così, perché passi il 9, quindi sei intorno ai 9.10, 9.15 anche, perché dopodiché non è più segnato. Capito mi hai? E i soliti a barre digitali, quindi superi il 9 comunque. E vabbè, quello lì non è che siamo manco un po' giusti, sono un po' forfettari, come Smith. Io preferisco quelli analogici, quelli digitali, la verità, quando sono giusti. Riprendi Luca? Dai, sto facendo giocare il cagnoletto, la cagnolina anzi, però fa dispetti. Ma non ti ho comprato dell'arco vecchio lì? Io ho preso un'altra cosa incrociato già, ma non è un osso, non è granato di più, ma lì deve mangiare per il momento, sì, comunque glielo compro, non ho trovato lì all'Eurospin, da Mauris. Ah, c'è lo quello più. Da Caplare, quindi lì ce l'ha. Già mi farò un salto e glielo compro, tranquillo. Che ragazzi. Perché se no non si chiama le altre cose, perché ci si sta facendo lì. Niente. Oh via. Vabbè. A me mi è nato il canalino, Ma me ne sto uscendo, sì? Sì, sì. Ok. Marco, bene, mi stai ascoltando anche tu, sì? Ehi, ben amplificato. Ti sei preso un cane nuovo, Lu? Ma stessa razza? No, meticcio sempre, là. L'incrocio è di un pincher, là. Ossia va bene. Qui qua. Non è che me ne sono pentito, però devo aspettare un altro po'. Ci avevo preso due volte, ormai vabbè, c'è lo tempo. Ehi, cioè è passato troppo tempo dal ricordo della cagnolina di prima. Com'era il nome, Lu? Non me ne ricordo. No, assolutamente. Cosa, Marco? C'è sempre in due, parliamo. Ho detto, come si chiamava la nuova la cagnolina di prima? Luna, questa dea. Perfetto, nome breve. Sì, no, non questi nomi strani, no. Nome breve, facile da pronunciare. Avanti. Ciao Franco, riprendi. Io invece ho solo gatti. Gatti mandroni e pure viziati, ma viziati al massimo. Se non vorrei voler piace a loro, ti guardano male pure. Ma vabbè, riprendi Gianni. Ma ce li hai in casa oppure sono di quelli che vengono, gli sciacquiti che vengono a mangiare? No, no, in casa non c'ho niente. Sono tutti fuori, c'hanno a disposizione parecchio terreno. Qualcuno ogni tanto se ne va a suo rischio e pericolo perché fuori ci sono i cani, qualcuno non ritorna più. E altri invece, i più anziani, rimangono, perché questa poi in realtà è diventata una casa di riposo per gatti. Molti sono vecchi, se ne stanno lì tranquilli e non danno fastidio a nessuno. Anzi, guardano un po' con, non dico con disprezzo, ma con passione i giovani che sono casinisti. Appena non ho capito c'è qualcuno che li va a mangiare, più bene di così. E infatti poi a quell'età dove vogliono andare, sono senza denti. Poveracci. Il mio mi è morto a 19 anni, io ce l'avevo in casa, ce l'ho persiano. Sono degli animali strani, troppo... insomma, la pensano un po' come l'uomo, dai, o come le donne, come preferisci. Sono stravaganti, ma noi ci guardano come dei gatti grandi, da cui approfittare, poi girano le spalle e se ne fanno, non ne frega niente, capito? L'importante è che stiano bene loro. Anche tu è così, Marco. Vabbè, l'affetto lo dimostrano sempre, però il gatto è più opportunista del cane, il cane è più fedele, più tutto, però il gatto è meno impegnativo, c'ha la sabbietta sua, non devi stare tre volte al giorno a portarlo fuori, per me sarebbe un incubo avere un cane, proprio un incubo è. Prego, prego. Registrato Gianni, tanto vale mandarlo avanti, vai Gianni. Buonasera Marco, non so chi ci sia, quindi saluto in generale a tutta la trippa, ok? Bene, dai, ti viene a cermare, avanti. Gappa, sì, il cane è presumo più intelligente, non so a livello di intelligenza se sia effettivamente più intelligente, ma sembra così, più fedele, più tutto, più fedele persino di alcuni esseri umani o di alcune mogli. Vai Gianni, ma Gianfranco volete. Ah, su quello sicuramente, come fedeltà è pressoché assoluta, è quello che loro contraddistingue dal gatto, infatti. Il gatto è opportunista, guarda innanzitutto i suoi interessi, il che fa denotare un'intelligenza fuori dal comune. Si sa sempre arrangiare, lui se la cava sempre, a meno che non investano per sua distrazione, però. O perché è malato, o perché è troppo anziano. Tu figurati che tenta anche di fare festa alla morte quando è vicina, perché va a nascondersi da qualche parte nel tentativo di pistarla. Però quella, siccome la morte, bene o male lo trova sempre. Penso a causa della temperatura, ne stiamo trovando tanti morti, anche piccoli, l'altro io non grande. Così, senza apparente motivo, senza ferite, senza niente. E sicuramente l'enorme spasso termico che c'è stato che li fa male. Riprendi Gianni, saluto anche l'altro Gianni che è entrato. Buonasera. Riprendi doppio. Lo sarà nel bocconi che gli hanno dato. Ciao Gianni Lubrofetta, ben sentito, buonasera, avanti. Ciao Doppio, buonasera, sono entrato, io ho acceso proprio, ho acceso la TV un attimino per guardare, e poi è acceso il baracchino, stavo là con questa pagliacciata delle qualifiche della, della MotoGP e niente, comunque salutoni a tutti, dai. Non so qual è l'argomento del QSO, per cui mi è sembrato che state parlando di felini, boh. Di animali in genere stavo parlando adesso, prima abbiamo parlato di altri, stavo parlando di animali, non so come ci siamo usciti, ma comunque io ho avuto sia cani che gatti, io avevo un gatto molto affettuoso, era molto coccolone, però non stava più di tanto in braccio, aveva quel difetto, lo potevi tenere un po' in braccio, poi prendeva e se ne scendeva, era molto autonomo come gatto. È cresciuto con mia figlia, quando era piccola mia figlia, lui si nascondeva dietro la porta e come passava gli saltava addosso e lì si facevano dalle risate. Sai quanto giocavano? Lui. Allora, Flo è così, in braccio non vuol stare, però certe volte fa, quando fa le fusa già, certe volte impazzisce, si rotola a terra, si mette a pancia all'aria, è una cosa allucinante. Solo che devi trovare il momento giusto, non, cioè vuole una certa, non vuole stare in braccio assolutamente, quello non le piace, vuole una certa autonomia nel movimento. No, senti, scavatici quello che vuoi. Faceva il massimo della, ti dava il massimo dell'affetto, che quando loro ti comprimono con le zampe del petto, praticamente richiamano quando la madre gli dava da mangiare il latte, che loro comprimevano il seno per uscire il latte, capito? Era così, a volte faceva le fusa, faceva queste cose, a volte però era proprio così. È vero, quando zampettano così e quando, sì, quando venivano allattate, come dire, massaggiavano con le zampe il seno della madre, però fanno su certe coperte oppure addosso se sono molto, molto rilassate, così, va bene. Oh Gianfra, comunque è risolto per il box, prima ho mangiato il cervello a Gianni, gliel'ho fatto sentire, regolate le cose base, funziona. Poi se vuoi sentirlo andiamo in un altro canale, però non voglio monopolizzare qua. Ok, quando vuoi lo proviamo. Dato che tu perlomeno Marco, non so gli altri, sei anche un cultore dei film, c'è un film proprio su un gatto molto molto bello che si chiama, tradotto in italiano, A spasso con Bob. Se ti capita, guardalo, la storia di un ragazzo tossico che incontra un gatto, è un bellissimo film. Tutto lì. Facciamo riprendere su a Gianni 2, no a Gianni doppio giù. Avanti. Gianni il profeta. Scusami, sto facendo una passa. Ah, ok, perfetto. Perfetto, allora riprendi Gianni. I gatti sono molto emulatori, tendono a imitare l'uomo, purtroppo anche come comportamenti, però tra di loro ce ne sono molto affettuosi anche, per carità, il che denota che hanno anche loro dei sentimenti, però la pensano sempre a modo loro. Il mio sai cosa faceva? Ti dava praticamente, ti allontanava con la zappa, se si stava in castiretto. Prima ti avvisava, ti allontanava, poi due grappi, dico una doppietta. Allora a volte dipende dal carattere. Ognuno ha il suo carattere, non ce ne sono gatti uguali. Riprendi Marco. Eia. Sì, ognuno ha la sua personalità, proprio come gli esseri umani, così il cane. Va bene, Gianfra, se vuoi provare attaccato al microfonino, passiamo, che ne so, 37, canale 37, ci distanziamo un po'. Intellettuale proprio, che non c'è nessuno, guardate in affronto. No, vabbè, ma qua ci sono più persone, anche Luca c'è, insomma, non voglio... Dai, le prove... Andiamo in un altro canale, dai. Come vuoi, fai una chiamata, tanto io ti trovo quasi istantaneamente, perché ti vedo quando parte. E col waterfall, come si chiama? L'analizzatore. 37 comunque. Canale 37, dai, già dopo. Ok, arriviamo subito. Fammi una chiamata, Marco. Come sempre avete parlato in due. Ok, faccio chiamata là. Andiamo, andiamo, chiamata. Gianni, ci sei? Tutti spariti siete. Dovrei metterne almeno una se non due, una che aspira e l'altra che manda per poter far circolare l'aria, capito che c'è un medio umidizzato. Tenerlo due, tenere la seconda mano è quella degli alimentatori. Quelle forti, quelle. Non so, vedi tu, Sì, danelo, io quando vuoi. Cioè io almeno sono a casa da mamma. Vale, te le cerco e poi ti mando le foto, dovremmo andare anche qualcuna grande. Poco più grande di quella degli alimentatori, da. In base a quello poi prendo la griglietta, capito? Va bene, grazie. Sì, domani sera rientro a casa, così. Lunedì. Cerco, già ne ho, l'entro è sicuro che ne ho, guarda, sicuro al 100%, di quelle di completa ne ho forse una decina, dovrei averne qualcuna grande anche, non mi ricordo, se ce l'ho già tra l'altro non c'è problema, dai, mi assento, arrivo, ci sentiamo fra un po'. D'accordo, Antonio. Sì, Gappa, eccomi. Pure io per un pochettino vado a prepararmi, vado che stanotte esco con la signora e mi devo fare bello dopo. Ma sì, dai, così almeno consumi. Adesso dopo un mese, più di un mese rientrato in 35 gatto di casa, adesso basta. Adesso oggi usciamo e siamo meglio. Cioè, ci mangiamo una pizza insieme e via. Occhio che stanno mettendo contravenzioni e multe per gli assemblamenti, quindi fai quello che devi fare. Gioco buonetta, gioco, ma ne già girato le palle, chi c'è? Per carità. Non è più vita quella. Lo so, cosa faccio? Poi ci siamo di eliminata, c'è una trentina di persone, non penso che vengano, eh? Lo so, insomma, non andrà bene, no, così. Va bene, la faccio mangiare 7 da una parte, 8 dall'altra, gli altri 20 da un'altra. Capa, no, ma il distanziamento già c'è, tanto siamo in due, ci amo, già. Distanziamento c'è. Dove cavolo ho messo la mascherina? Aveva toccato la mascherina. E che là c'era più lavata. Un pezzo di straccio ti metti. Allora, proprio pure a secco. Che cazzo è più, ma non mi dici che è più brutta. Mamma mia, un capo mio. No, lo sai che non fumo. Ok, dai, ti devo lasciare, dai. E vado a cercare anche questa cazzo di mascherina. Vanno il gatto della mia borsa. Ehi, va bene, non c'è problema. Fai con comodo, ciao, buona serata. Oh, ciao, ci sentiamo. Buona serata anche a te. Ciao. Luca. Neanche ti rispondo, guarda. Sono tutta la sera chiamandoti. Non so se tu accendi adesso. Ma ti parlo, non rispondi, ma insomma. Scellerato. No, adesso ti metto la portante. Anche perché c'era Luca qua, ma non so se c'è ancora, Ecco qua. Io ci sono, Sì, anche io. Adesso stavo scrivendo al computer, c'è l'impianto della macchinaria che secondo me è andato un po' a massa. Sto cercando un po' le cause di cosa potrebbe essere. Ho capito. E c'è sempre qualche problema, c'è sempre. Poco fa ero impegnato a casa, perché ero in guerra col Pozzetto, ma comunque adesso ho risolto anche quello, per cui anche il purissimo voglia essere lì da farmi faticare. Guarda Giulio, non manca a nessuno, ogni tanto ce n'è per tutti, eh? Eh sì, no, siccome nel seminterrato ho il Pozzetto, che è dove scende l'acqua della cucina e poi la butta, la solleva e la butta nella cosa centrale, no? si è creato il calcare, non so se esiste qualche prodotto che scioglie il calcare o qualche cosa, non lo so, boh. E quando si appesantisce la cosa, come si chiama, accidenti, il galleggiante non ce la fa salire perché si è appesantito da tutto il calcare che si è creato, capito? Allora l'ho dovuto staccare la spina e l'ho tutto pulito e funziona benissimo. Certo, bisogna fare un po' di manutenzione, perché queste cose qua va bene finché va bene, ma poi se c'è qualche cosa vuol dire che bisogna controllare. Infatti non lo so se esiste qualche prodotto che possa sciogliere, cioè che eviti di formarsi questo calcare, perché quando lavi piatti, sai, con i detersivi eccetera, finisce che lavi oggi, lavi domani, si crea un cumulo e diventa una pietra, ed è pesante. A quel punto lì il galleggiante, chiaramente essendo molto pesante, non ce la fa più a salire. Sì. Ho lo stesso problema io ho due fosse assetiche, una per le acque grigie e l'altra per le acque nere, e dove scarica la lavatrice fa tipo pietra, poi è anche puzzinoso, per carità. Io molte volte, poi galleggiano, cioè sono pesanti, però galleggiano, molte volte prendo una rettina, quindi cerco di smaltirle, di toglierle da lì, perché non va bene tenerle. Ho capito. Sì, ho capito, tu ci hai messo una rettina all'interno per non, in modo che l'acqua passi solo l'acqua al galleggiante, ma siamo sempre da capo, prima o poi la rettina si ottura dal calcare e siamo sempre da capo. No, mi sono espresso male, a volte con la rettina le tolgo fuori dal pozzetto, capito? Ah, con la rettina, anch'io faccio così, anch'io ho una G, tu presente ce l'hai un colabrodo, dai, chiamiamolo così, però di quelli da pentola, non perché ho quelli da pasta, quello. E qua ho sacrificato uno di quelli, ho preso un bastone, l'ho attaccato e lo porto dentro e raccolgo, diciamo così, il pietrame che si forma col calcare. Esatto, vai, vabbè. Solo che l'accorciatura, ogni poco tempo bisogna fare quella manutenzione lì, ed è una scocciatura veramente, vabbè, comunque, bisogna farlo e basta. Sì, vabbè, io ho provato anche a mettere delle sugli calcare, questa roba qua, però, sono, perché c'è, potresti mettere anche delle bustine, esistono delle bustine, anche per le fosse biologiche, per gli odori, per sciogliere questa roba qua, ma questo è un patrimonio, una mi sembra devi buttare una ogni 3 giorni, 4 giorni, adesso non mi ricordo, ma sono spese extra quelle che non ti risolvono il problema. E appunto per quello, perché le ho utilizzate io con le bustine, però non scioglie proprio niente. Non scioglie proprio niente, il calcare si forma ugualmente, per cui non, come stai dicendo tu, sono soldi buttati. Magari fossero efficaci, poi pazienza e soldi, non sarebbe quello il problema. Però, insomma, è inutile, non funziona, non li scioglie, per cui no, è come non aver buttato niente. E allora? vabbè, non so, una soluzione la troverò, non so come fare comunque, perché essendo in basso sotto il livello stradale è chiaro che ci vuole quella pompa di tiraggio che poi è collegata al tubo centrale, quello dove al tubo d'accento, dai, tramite una spalletta, quello si chiama. Dunque, no, scarica bene. Quando è pulito c'è problema, alla grande, no? In pochi secondi si svuota il bidone, chiamiamolo bidone, il serbatoio che c'è, è un serbatoio all'incirca di 100 litri più o meno, e in 20 secondi te lo svuota. Sì, già lo so, lo conosco. E io stesso una cosa del genere. Infatti, è una pompa che avevo pagato 240 euro, tutta quanta, insomma, è una bella pompa, tira anche a profondità di 7 metri, 7-8 metri, tira, lo stesso. Questo invece è sotto il pavimento, praticamente c'è un mattone di cosa, come si chiama, di, per verificare quando c'è qualche problema, e tiri su quello, si apre e vedi l'acqua. E a quel punto inserisco quella specie di colabrodo, come lo vuoi chiamare, e tiro su tutto il calcare e tutto funziona alla grande pure. Sì, io ce l'ho qua, vabbè, ma è proprio mio, è giù in Paferno dove ci sono i miei, e ho fatto una cosa del genere, sia lo scarico delle acque grigie, così, che poi me lo porta nella mia fossa biologica, capito? Quindi tramite pompa, siccome sono giù, quando arrivo a quel livello, tac, funziona, si mette in azione da sola e va a scaricare. Ok, ho capito. E vabbè, comunque, purtroppo è così, pazienza, sopportiamo, che cosa vuoi fare? Il problema è, oggi ci sono io, vabbè, e domani che non ci sarò più io, questo lavoro chi lo fa? Infatti stavo pensando, ma gira, mi trasferisco alla cucina, mi faccio un tramezzo nella sala, lì c'è lo scarico, perché inizialmente ce l'avevo lì la cucina, no? Quando mi ero trasferito, che ancora la casa non era stata finita, allora, tanto per arrangiarci, avevo fatto la cucina nella sala. Gira, faccio la camera lì, la cucina, per nome il cucinino, là, non me la cucina. E poi da lì scarica direttamente dentro la foglia maestra, chiamiamola, dai, dentro il tubo maestro. Sì, infatti. Vabbè. Molte volte però servono anche le pompe sollevamento proprio per questo motivo qua, perché si è bassi, quindi ci dobbiamo affidare a loro. Io ne avevo cambiato già, questa è la terza che cambia addirittura, e anche io ne avevo pagato intorno al 250, 280, insomma ricordo, tutto in acciaio, però anche loro hanno una vita, non è che bisogna trovare quella proprio che insomma ti faccia parecchi anni per poter stare un pochino più tranquillo. Solo che non ci sono più le pompe di una volta, ora sì, ti durano quei 5, 6 anni, 10 anni, dopodiché però anche loro entra nell'indotto. Io ne ho comprato una da poco, pagata lo stesso con la cifra lì, quanto l'ho usata? Boh, forse 2, 3 anni, 4 anni, non mi ricordo. Comunque in giro di poco tempo l'ho portata lì da Cugusi e gli ho detto oh Marco, mi ha servito. Marco, ma ti ricordi questa pompa che sì, c'era poco, non funziona più. Va in protezione, praticamente gli ha cambiato tutte le guarnizioni, tutto quello che c'era da fare, però l'umidità niente, poi non è più partita. Ho capito. Purtroppo così. No, io devo essere sincero, questa funziona, quando è pulita funziona, quando non ci sono ostacoli, perché c'è un tubo flessibile, tu immagini un cavo elettrico, e attaccato a questo cavo elettrico c'è questa specie di palla di plastica, che dentro c'è l'interruttore. Quando quella palla di plastica che galleggia supera quel livello, entra in funzione la pompa. Però se si forma attaccata a questa palla di corso, se si forma il calcare, si appesantisce e allora diventa un problema, non ce la fa più a salire, è come una pietra dentro in acqua, capito? Sì, so benissimo come funziona, Giulio, noi li usiamo anche per scaricare, per ruotare gli scavi, questa roba qua, la conosco benissimo. Io molte volte addirittura in alcuni la metto fisso il galleggiante, perché mi serve niente una cosa, quando lo metto la pompa deve partire. Conosco. Ok, sì. Infatti questa è la seconda pompa che ho io, in 17-18 anni che sono qua. La prima che avevo funzionava ugualmente bene, però a un certo punto, dopo anni, si è guastata e il galleggiante era diverso, non c'era il tubo flessibile, cioè il filo flessibile con questa palla che galleggia così, eccetera, che tra l'altro si sposta anche in mezzo all'acqua. era un galleggiante diverso. Quando arrivava a quell'altezza, praticamente era un galleggiante direttamente sull'interruttore d'avvio, e forse quella era migliore, non lo so. Solo che questa aspira di più, aspira prima. Io l'avevo cambiata e l'ho comprata così, anche perché me l'hanno consigliata. Da De Marzi se l'avevo comprata, quel negozio rigido che c'è lì, non mi ricordo come si chiama. Sì, Giovanni. Tu stai dicendo, quello è braccio, c'è un braccio praticamente con il galleggiante attaccato, e sì, ho capito, non è quello flessibile. Infatti se quello che vende materiale ridere lì, per andare alle braccio bancari. Sì, quello lì, da quello l'avevo comprato, e diciamo che avevo comprato tanto materiale lì, molto materiale, non poco, molto, per cui sono andato lì. No, anche perché se ho qualcosa da chiedere, lo chiedo e mi consigliano anche, no? Questo sì, per cui e allora mi sono sempre servito quasi sempre da lui. Anche ultimamente, quando avevo fatto l'ufficio, tutto quel materiale che mi è servito, bocchetti, eccetera, intonaco, tinta, tutto quello che mi è servito per l'ufficio di mio figlio, ho comprato tutto lì. Va bene, pazienza. Troverò una pompa adatta, mi informerò dai negozianti, vediamo cosa mi consigliano. Ma sì, dai, guarda, il più attrezzato che conosco io è qua, l'uscita della Bretellina, quello che c'è Cusi, che c'è, cioè c'è Sedone, no? Cusi, un cacchio che aspetta. Io conosco un po' tutti, no, quello che c'è qua l'uscita della Bretellina, se non altre voce. Quello è il più rifornito che c'è. Ci sarà pure una pompa diversa che non subisca il problema del calcare. Vedremo. Andrò in giro, chiederò anche da R se c'è qualcosa. Tanto tutto quello che l'aulica avevo comprato, tutto da R avevo comprato. Chiederò anche da loro, vediamo un po' cosa mi dicono, se mi possono fornire un qualcosa di più efficace, ecco, per evitare sempre questo controllo che almeno una volta a 7-8 mesi, magari qualche volta quando dura molto anche un anno, va bene, però mi scuccia stare lì sempre a trafficare in questo pozzetto, capito? Lo so. Sì, quando vedi che già sono ben informati. Va bene Giulio, ti devo mollare che adesso devo fare un po' di cose qua, iniziare a mettere la signora, vuole accendere la stufa adesso che qua in campagna inizia a scendere un po' la temperatura più del dovuto adesso, quindi dobbiamo premurci di legna e quant'altro, quindi devo preparare, se no tocca farlo più tardi e più tardi non ho voglia. Beh, nel caso ci sentiamo dopo. Ok, sì, d'accordo, dai, buone faccende, allora ci sentiamo, ciao, alle prossime, ciao. D'accordo, ciao Giulio, ciao.